Il 25 aprile lei che cosa fa domani? Ma domani niente, che devo fare? Non faccio niente, fa pure freddo, che dobbiamo fare? Niente, è una giornata qualsiasi, dice lei. È una giornata che spezza la settimana, quindi uno sta in famiglia, appunto. Per me è una giornata... Qualsiasi, una giornata qualsiasi. Una giornata, te l'ho detto, festeggio San Marco, il mio nipote. È una giornata... solida. Niente, quelle che purtroppo è una giornata della festa in cui si festeggia la democrazia. Non c'è niente da festeggiare. Appunto, ognuno la festeggia come crede. Io festeggio San Marco. Finora non ho ancora mai sentito un presidente della Repubblica, magari, che dice una parola su Piazzale Loreto, una parola chiaramente di condanna per quello che è successo. Anche questo, io credo che la pacificazione e un clima anche più sereno possa essere fatto e costruito passo dopo passo. Certo. Cioè, invece mai niente è stato detto su questo.